Ora Marx parla anche di feticismo delle merci. Che cos'è? Certe volte noi ci dimentichiamo del valore che c'è dietro un oggetto, cioè il valore in quanto il lavoro delle persone che hanno fabbricato questo oggetto, ce ne dimentichiamo. È quasi come se amassimo gli oggetti dando un valore intrinseco all'oggetto, ma in realtà ci Intelligenza, dimentichiamo sto scrivendo. che dietro in realtà c'è un valore umano, c'è un capitale umano, ci sono delle persone che l'hanno costruito. Ora Marx dice che il sistema capitalistico è cambiato nel tempo, perché prima era un sistema merce, denaro, merce, che vuol dire che prima io vendevo della merce per avere del denaro per comprare altra merce. Ti È ricordo. come una forma di baratto in cui Economia industriale. l'intermediario è il denaro. Però non c'è un valore aggiunto, cioè io quello che do, tanto ricevo. Se Luca, vendo tanta sei merce, pronto? riacquisto tanta merce. Questo è il sistema. Ora cambia e si trasforma in denaro, merce, denaro. Ovvero il capitalista ha il denaro che Ma investe sconfido di me. per C'è differenza. No, fabbricare altra fermo. merce, per poi guadagnare del denaro che è superiore al primo. E allora il dubbio di Marx dice: da dove nasce questo denaro in più rispetto al denaro iniziale? Cioè, qui il denaro non è come una sorta di baratto. Qui non c'è nessun baratto, c'è un valore che lievita sostanzialmente, c'è del denaro in più rispetto al denaro iniziale. E qui Marx dice: i conti non tornano, cioè dobbiamo far quadrare i conti. Come con il plusvalore. Che cos'è il plusvalore? È un valore aggiunto della merce che Marx dice dipende dal lavoro delle persone che hanno fabbricato quell'oggetto. Sostanzialmente dice gli operai sono sempre sottopagati, sono un po' sottopagati, ma è grazie a questo fatto dell'essere sottopagati che il capitalista guadagna un valore aggiunto che si chiama profitto. Quindi il plusvalore non è altro che quel guadagno in più, più o meno, Quindi il Eccetera, plusvalore dipende proprio eccetera. dallo sfruttamento delle persone, dallo sfruttare delle persone, è la diretta conseguenza. E quindi, dice Marx, dal plusvalore deriva il profitto, ma plusvalore e profitto sono cose diverse. Però non ci addentriamo nei meandri della filosofia e possiamo dire che il capitale di Marx si può concludere qui. Sì.